con Simone Ferretti, uno dei curatori della 21ª edizione del Festival Resistente a Grosseto, al Cassero Senese, dal 24 al 27 aprile 2019. Simone, ben trovato. Ben trovati a voi. Raccontaci tutto. Sì, siamo arrivati a 21 anni di impegno in questo festival e sicuramente siamo una delle realtà più longeve sul territorio che continua a lavorare sui temi della memoria e non solo. Con le solite difficoltà di costruire questo evento, che è un evento che ricordiamo prima di tutto a un taglio di una festa nazionale di tutti, quella della liberazione, ma che sempre di più sembra qualche cosa che in qualche modo deve essere ritagliato per, diciamo così, qualcuno che sostanzialmente ritiene la cosa sia di parte. Non è di parte, ci impegniamo quotidianamente per la costruzione di un evento che riguardi la città, un evento culturale di confronto e di dibattito. Un 25 aprile, da 21 anni, abbiamo pensato di onorare il momento nel modo migliore, appunto parlando di diritti e non solo. Questo è quello che facciamo e quello che costruiremo dal 24 al 27. Sempre al Cassero Senese, nel centro storico di Grosseto, sempre con quel format che vuole abbinare dei momenti di confronto politico, culturale e poi anche culturale e musicale. Dal pomeriggio alla sera? Dal pomeriggio fino alla sera, 25 anche a pranzo, dopodiché largo i concerti e tutti gli altri eventi che si svilupperanno nella fase post-cena all'interno del Cassero. Ci racconti un po' tutti gli appuntamenti, una Sì, panoramica? siamo partiti da portare quest'anno degli appuntamenti collegati al tema delle storie, le storie narrate attraverso il primo recital Invisibili con la banda armata maremmana che racconterà delle storie della resistenza della Maremma e non solo attraverso chiavi musicali. Sul palcoscenico abbiamo il concerto dello Sweet Life Society e poi largo ai DJ. E così il giorno successivo per il 25 aprile, dopo la manifestazione mattutina e il pranzo resistente al Cassero, passeremo con la musica popolare dei 10 anni dei Braccianti di Maremma e allo spettacolo di Erata. Se vi assiste la memoria, uno spettacolo di racconto di storie parmigiane. Poi il venerdì 26 avremo la presentazione del libro A Casa del Popolo, Antropologia e storie dell'associazionismo ricreativo, nel quale metteremo insieme a confronto un'esperienza dei luoghi sociali, degli spazi sociali, una vera infrastruttura politica e sociale sul quale secondo noi dobbiamo valorizzare nuovamente e ricostruire un senso comune. E con questo ne discuterà Jacopo Fraconi, che è il presidente dell'Arci di Firenze, una delle arci più grandi d'Italia, dal punto di vista di strutture e di circoli, insieme a Claudio Renzetti, che è il segretario generale della CGIL di Grosseto, e a Massimo Alessandri, che è il presidente dell'Associazione Culturale della Quercia. Dopodiché ci sarà un reading su un libro di Alessandro Angeli, Combattevamo i fascisti per mare e per terra, un libro su Woody Guthrie. Dopodiché ci sarà il concerto di Dirotta su Gubbio insieme alla premiazione del contest musicale che come ogni anno teniamo per il Festival Resistente. L'ultimo giorno, sabato 27, nel pomeriggio avremo prima una presentazione di una ricerca fatta da Arci Servizio Civile sul tema della memoria, successivamente la presentazione del libro di Achille Occhetto, La lunga eclissi, passato e presente dal dramma della sinistra, e poi a seguire il concerto con Tre Passi Avanti e il concerto di Giancane. Simone, ti chiedo anche un aggiornamento sulla situazione, sul clima politico in città. La città vive sempre, diciamo così, la sua aria, diciamo così, occupa dalla dalla presenza di una maggioranza di centrodestra che, come detto, ha delle difficoltà grosse nel riuscire a discutere di alcuni temi, come di alcuni temi centrali per noi, come il tema del. Ancora di più, pensiamolo, se si allarga poi a tutto il contesto collegato al tema del 25 aprile, con questo della resistenza. È un tabù dettato da una maggioranza di centrodestra, sicuramente spostata più a destra che al centro, la presenza non più in maggioranza di un consigliere di Casa Pound, per cui diciamo così, è tutto un contorno un po' difficile sul quale lavorare, ma noi ci ostiniamo e continuiamo insieme a tanti altri soggetti che saranno insieme a noi a costruire questo 21esimo Festival Resistente, a dare un'idea differente di società e anche la costruzione di una comunità coesa, quello che secondo noi sta al centro di questa nostra esperienza. Ci lasci tutti i riferimenti web per il programma? Sì, trovate tutto sulla pagina Facebook del Festival Resistente, digitate Festival Resistente, trovate la nostra pagina e poi dopodiché lì riuscite a trovare la nostra mail, il sito è www.festivalresistente.it e questi sono un po' i contorni della nostra comunicazione, diciamo. 21esima edizione Festival Resistente al Casserosenese a Grosseto dal 24 al 27 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Simone Ferretti. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto, Simone. A presto, grazie come sempre per questo spazio e ci vediamo, ti aspettiamo qua a Grosseto.